Palla Spicchi di Dario Ricci. E beh, insomma, l'abbiamo detto tante volte, sarà pure un campionato equilibrato perché livellato verso il basso, il livello non sarà eccelso, ma in questa Serie A del basket di cose ne capitano e come. Allora ve le raccontiamo anche questa domenica con l'aiuto di Giorgio De Luca in redazione e Valeria Bernardi in regia. Basti pensare, nona di ritorno, Siena, lo sappiamo, è in crisi e domani ospiterà l'insidiosissima sfida con la Lenovo Cantù. Ma intanto questa domenica cade Sassari, 108-91 a Cremona, e Varese potrebbe già approfittarne perché mancano 2:43 all'intervallo lungo con Reggio Emilia e i varesini sono avanti di 5. E poi cade ancora una volta clamorosamente, il tonfo è sempre di quelli che fanno rumore, Milano, sconfitta in casa dalla Sutor Montegranaro. Insomma, è appunto, è il campionato delle sorprese e dell'equilibrio. Vediamo subito i risultati. Allora, è a 7 Emporio Armani Milano, Sutor Montegranaro 71-85, Umana Reyer Venezia, Angelico Biella 97-62, 108-91, come vi dicevo, per la Vanoli Cremona sul banco di Sardegna Sassari. Vince Roma, la CEA Roma che batte l'Ocnoplast Bologna 90-70, 66-77 l'importante successo esterno della Scavolini Banca Marche Pesaro sulla Juve Caserta. Vince fuori casa anche la Sidigas Avellino 76-72 sull'Enel Brindisi. In campo attualmente, come dicevamo, Reggio Emilia e Varese 35-41 per i varesini quando mancano 2 minuti alla fine del secondo quarto, quindi del primo tempo. Domani Montepaschi Siena, Lenovo Cantù, il posticipo di lusso per una classifica che vede Sassari e Varese ancora appaiati a quota 36, Roma che sale a 34, Cantù 30, Milano e Siena 28, Reggio Emilia 26, Venezia 24 punti, a quota 20 Brindisi e Caserta vengono raggiunte da Cremona, 18 punti per Avellino e Montegranaro, a 16 Bologna, 14 punti per Pesaro che allunga su Biella, fanalino di coda, a quota 10. E allora andiamo subito da Roberto Nardella al Forum di Milano per questa clamorosa sconfitta, ma forse è stata anche una vittoria di Montegranaro, perché spesso sottolineiamo solo i demeriti di chi perde, ma i marchigiani di Charlie Recalcati ci avranno sicuramente messo del loro. Questa clamorosa sconfitta di Milano 71-85 al Forum contro Montegranaro. Ben trovato Roberto, che atmosfera si respira lì al Forum? Immagino un po' frizzantina, Un'atmosfera molto frizzantina. Buonasera a tutti gli amici di Radio 24 qui dal Forum, soprattutto nel finale di partita. Come dicevi giustamente tu, ci sono anche i meriti di Montegranaro, anche di Cicerini, 20 punti per lui, 21 per Burns. Dal 12-13 il sorpasso di Montegranaro dopo l'iniziale 6-0, gara a senso unico da parte della Sutor, addirittura a più 24 nel terzo periodo. Poi Milano è riuscita a riportarla ad un divario più accettabile, ma cambia poco. Protesta una volta dopo tantissimi tempo, anche abbastanza importante da parte di una parte della tifoseria, scusate il gioco di parole, di Milano. In questo momento ve lo posso dare in diretta, poi magari se ci dovessero essere notizie particolari ci riaggiorneremo tra qualche minuto. C'è una specie di conclave tra il presidente pure Prodi là, e pure il là al Forum, insomma, è il periodo, esatto, il GM Portaluppi. Scariolo a distanza di circa mezz'ora dalla fine della partita non è ancora uscito per andare in conferenza stampa. Roberto, ti chiedo, ma panchina di Scariolo a questo punto a rischio? In questo momento, guardando anche a quello che diciamo sta succedendo nel Forum con un continuo via vai tra appunto questa specie di riunione da parte delle alte cariche della società di Milano e il fatto che Scariolo sia ancora in spogliatoio, non posso darvi notizie certe. Certo è che a gran voce, ed è la prima volta francamente che ci capita di sentirlo così quest'anno, tutto quasi il pubblico del Forum del Sago ha gridato insistentemente nel quarto periodo la parola dimissioni, dimissioni, ovviamente all'ordine di coach Sergio Scariolo. Vedremo se poi saranno o meno confermato questo, chiamiamolo così, suggerimento da parte della tifoseria di Milano. Suggerimento è un eufemismo che ci sta nel contesto, anche se poi chiaramente spesso è il tecnico che paga per tutti, ma intanto aspettiamo le decisioni della società. Allora Roberto, intanto ti ringrazio, ma chiaramente ritorna a chiederci la linea nel caso vi siano degli aggiornamenti. Anzi, torniamo con te nella seconda parte per avere ulteriori aggiornamenti, visto che la situazione è del tutto particolare. Ci risentiamo dopo. Roberto, andrei subito intanto a Roma per la vittoria invece di una CEA Roma veramente brillante anche in questo terzo scorcio di campionato, più 20 su Bologna. Coach Calvani l'aveva detto, attenzione a Bologna perché la classifica non rende merito né alla squadra né al roster. Direi che l'impegno non è stato sottovalutato, vero Fabrizio Fabbri? Buonasera. Buonasera a voi. No, assolutamente, anche se i primi 20 minuti sono stati molto complicati per la squadra di Calvani, che è un dato statistico da sottolineare, oggi è matematicamente ai play-off, quindi rientra ai play-off dopo 3 stagioni di assenza. Dicevo di 20 minuti abbastanza complicati perché Siena, scusatemi il lapsus, perché Bologna ha con la zona messo dei sassolini nell'ingranaggio di Roma ed è volata anche a un vantaggio di +10, trascinata da un Matteo Imbrò assolutamente in grandissimo spolvero. Alla fine del secondo quarto, 33-38 per la formazione di Luca Bechi, rientro dagli spogliatoi e c'è a Roma completamente trasformata e capace di piazzare un parziale devastante che racconta di un 57-32 che ha chiuso di fatto i giochi. Protagonisti assoluti per la formazione giallorossa, Filgos immarcabile nella seconda metà di gara e un Gigi Datome che ormai non abbiamo veramente finito gli aggettivi. Oggi ha espresso un campionario di giocate vicino e lontano dal canestro che lo fanno veramente sempre più avvicinare a quell'obiettivo che lui non ha nascosto, che pare poter essere in tempi brevi anche la chiamata di una franchigia NBA. Quindi ma oggi non c'erano, Fabrizio, gli emissari dei Milwaukee in tribuna? Sappiamo che erano venuti a vederlo, non siamo riusciti a localizzare i due emissari di Milwaukee. Sono venuti con baffi finti e impermeabili. Boston lo ha sicuramente già, lo sta già seguendo da tempo e ci sono altre franchigie che lo fanno. Un dato importante, Dario, perché per la città questo è fondamentale, non c'era il calcio, tutto esaurito al palazzetto dello sport. Oh, che bella notizia. Ma dici che allora si potrebbe tornare al Paleur, magari sfruttando anche questa stagione eccezionale, diciamolo? Io credo che l'idea ci sia, ma che se andrà in porto sarà dal secondo turno dei playoff, se Roma andrà avanti. E ricordiamolo che Roma andrà a Varese lunedì di Pasquetta, vedremo come andrà il posticipo fra Varese e Reggio Emilia, con l'obiettivo, Calvani dice sempre di guardare dietro, ma bisognerà pure cominciare a guardare sopra perché Roma ha battuto già Varese al palazzetto e quindi vediamo come andrà la partita di stasera, perché poi la partita con la Cimberio potrebbe avere dei risvolti veramente interessanti per la classifica. Potrebbe essere stuzzicante. Grazie Fabrizio. Fabri da Roma, guardiamo il tabellino. Tra l'altro, volete scriverci qualche sms sulla situazione crisi di Milano? 349-238-6666, siamo qui. Palla a spicchi, il tabellino della sconfitta del Banco di Sardegna Sassari, la neocapolista, cade subito però a Cremona contro Lavanoli, 108-91, 25 punti per Peric in 34 minuti, 8 su 11 da 2, 3 su 7 da 3, anche 6 rimbalzi, 4 assist, 2 perse, 24 di valutazione, eccezionale, un'altra splendida partita di Luca Vitali che pensate chiude con 30 di valutazione, 20 punti in 32 minuti, 3 su 4 da 2, 2 su 3 da 3, 8 su 8 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse ma 5 assist, veramente stagione della rinascita per il play azzurro, 19 punti per Cotti, questo per quanto riguarda il tabellino dei cremonesi. Per quanto riguarda invece Sassari non bastano i 23 punti di Igneschi e i 24 di Drake Diner, mentre non c'era invece Travis Diner e inevitabilmente l'assenza è pesata. E vogliamo subito a Caserta da Carmelo Prestisimone, perché bel successo di Pesaro e di questo parliamo col tuo ospite, no Carmelo? Buonasera. Eccoci qui, Dario, buonasera, ben trovati. Bel successo di Pesaro che qui in Campania insomma va fortissimo, perché dopo aver battuto Avellino batte anche Caserta e ridimensiona le ambizioni dei campani per quanto riguarda i playoff. Vittoria ineccepibile 77-66 appunto per i marchigiani, che partono con Tori Thomas in quintetto che infila subito due bombe, e già nel primo periodo la Scavo mette il muso avanti 20-19. Akindele per Caserta non c'è, con la testa e con le gambe, e la Juve Caserta ne risente assolutamente, mentre invece Barbour è un cecchino micidiale dalla lunga, l'inerzia la sposta decisamente verso la Scavolini, che nel terzo periodo va avanti anche più 16. Caserta non fa nulla per rientrare, fallisce una grande prova di maturità. Molto bene per Pesaro anche Stipcevic, che era leggermente infortunato, 19 punti per lui, 5 su 6 da 2, 3 su 5 da 3, 20 di valutazione. Bene anche il cambio del play, Thomas che segna 13 punti, Mac 11. Per Caserta io salverei solamente Michelori, per lo spirito soprattutto battagliero del centro italiano che realizza 13 punti. Allora, coach Markowski, complimenti, gran successo, staccate Biella per quanto riguarda appunto la lotta per salvarsi, insomma la chiave di questa vittoria ineccepibile, dicevo prima. Abbiamo difeso bene nell'arco dei 40 minuti, e quando Tori Thomas ha fatto una partita da incorniciare cercando i compagni liberi in attacco, giocando davvero play, certamente era ancora più facile. Stipcevic infortunato, ma ha stretto i denti per essere della partita, anche lui nel sua realizzazione ha avuto ottimi momenti, perciò merito dei giocatori che soprattutto in difesa hanno costruito una vittoria importantissima per noi. Mancano 6 giornate alla fine del campionato, vi sentite un po' più al riparo dopo la sconfitta di Biella di oggi contro Venezia? Ma certamente, io dico che adesso siamo all'ultima curva della gara, perciò vedendo rettilineo non bisogna girarsi indietro, cioè quello che è successo fino a stasera, bisogna guardare solo in avanti e trovare le forze per arrivare al più presto al traguardo. Perciò non siamo al traguardo, ma certamente dobbiamo battere forte per arrivarci. Dario, se hai domande, Zare Markowski ti ascolta. Beh, soprattutto i complimenti al coach per quello che è riuscito a fare con una Pesaro che, ricordiamolo, veniva dalla semifinale scudetto, rifondata completamente, poi è subentrato al posto di Ticchi e sta traghettando i pesaresi alla salvezza con tutte le cautele del caso, perché 6 giornate sono ancora tante. Grazie a Carmelo Prestisimone e a Zare Markowski, nostro ospite qui a Pallaspicchi. Ci fermiamo per il traffico, poi ancora insieme perché c'è tanto basket di cui parlare. Palla Spicchi. Allora, eccoci qua, volevo vedere con voi il tabellino della vittoria della Sidigas Avellino sul campo dell'Enel Brindisi. Vittoria ancora più significativa perché anche stavolta Jaka Lakovic è rimasto in panchina tra gli irpini, insomma è il top player, e quindi vale doppio questo successo per gli uomini di Pancotto, che mettono a referto 14 punti di Richardson con 1 su 8 da 2, ma 4 su 5 nelle triple, 13 punti e 5 rimbalzi per Brandon Brown, soprattutto 24 in 31 minuti per Takandin, 3 su 9 da 2, 5 su 5 da 3 con Avellino che tira col 50%, mentre Brindisi non va oltre un 3 su 24, pensate il 12%, dicevamo Takandin che poi aggiunge anche 5 rimbalzi per un 18 di valutazione, e quindi gli irpini conquistano quest'altro bel successo. Stefano Valenti, ben trovato. Ciao, buonasera a voi. Oh, Stefano, ma che succede a Milano? Potrebbe essere questa la domenica dell'addio di Scariolo? Ma guarda, nella presentazione che avevo fatto per Repubblica.it avevo così, mi ero permesso di scrivere che avesse nuovamente perso in casa, Milano doveva finire direttamente dallo psicologo, poi dopo lo psicologo c'è lo psichiatra. Io credo che stiano parlando, secondo me, proprio di problemi mentali, perché non è l'assenza di Ayrton ovviamente che può costringere a pensare che Milano rischiasse di perdere anche oggi contro Montegranaro, che è una società che ha problemi indicibili, che ha perso un americano per via di stipendi non pagati, che oggi non aveva neanche Johnson nel roster, che insomma è in condizioni veramente limite, e invece Montegranaro non vince, cioè maramaldeggia a Milano, e credo che la questione mentale sia la base di tutto. Le cose di cui stanno parlando non possono essere diverse: la squadra è con Scariolo o contro Scariolo. Se conosco Scariolo, non credo che Scariolo darà le dimissioni, credo semmai che si stia cercando di parlare proprio riguardo le modalità di uscita. Altro problema non secondario, non è che il mercato degli allenatori pullula di nomi pronti per Milano, per vincere lo scudetto come Milano vuole fare, e soprattutto rimettere in piedi una squadra, insomma, che obiettivamente ha delle problematità di chimica evidenti e che non necessariamente riguardano solo l'allenatore. Beh, davvero sorprendente il fatto che ci troviamo a questo punto della stagione con la crisi milanese di fatto mai risolta, ma aspetta un attimo Stefano, che torniamo al forum con Roberto Nardella. Proprio adesso è terminata la conferenza stampa di Scariolo. Roberto, dici tutto. A dire la verità deve ancora terminare, però da un meglio, abbiamo un'anticipazione, vista, abbiamo un'anticipazione. Quello che ci poteva interessare è stato detto, è stato chiesto in più occasioni a Scariolo l'eventualità delle dimissioni o comunque di un gesto forte per cercare di cambiare questa stagione di Milano. Diciamo che Scariolo ha evitato il fuoco incrociato dei colleghi giornalisti mettendo a tacere subito la situazione. Fatto sta che di dimissioni per ora Coccio Scariolo non vuole sentir parlare, si è scusato con il pubblico dando comunque il diritto a chi paga il biglietto anche di poter contestare senza ovviamente diritto di replica da parte sua. Il motivo è sempre lo stesso, quello di continuare a lavorare e a capire perché, a suo avviso ovviamente, in settimana si fa qualcosa che poi però non si riesce a replicare la domenica quando c'è la partita, anche se però ormai i segnali sono davvero troppi per non far vedere evidentemente che c'è una crisi in casa di Milano. Vedremo se poi si risolverà nelle prossime ore o magari nei prossimi giorni con le dimissioni di coach Sergio Scariolo, oppure se sarà in sella anche nella prossima partita di Milano. Beh, prossima partita, intanto grazie Roberto Nardella, che è sabato a mezzogiorno su in quel di Sassari. Quindi Stefano, direi che quello è l'ultimo appello, no? Sì, bisogna vedere cosa succede in settimana. Ripeto, magari evidentemente Scariolo lo conosco, sono convinto che lui possa ancora pensare di poter vincere lo scudetto con questa squadra, perché a Milano non si può parlare di altro. Se Scariolo è andato in conferenza stampa vuol dire, a mio giudizio, che la società non ha preso un provvedimento, poteva anche ad esempio impedirgli di andare in conferenza stampa, poteva anche creare un silenzio stampa dell'ultimissima ora, poteva parlare la società. Evidentemente non c'è una decisione, non c'è accordo sull'argomento. Certo, dare comunque un'ultima spiaggia a Sassari su un campo estremamente complesso, e magari Sassari avrà anche Travis Dimmer come oggi non ha avuto a Cremona. Beh, insomma, è un'ultima spiaggia, ma con la pistola puntata alla tempia. Ma lì poi si vede se, oddio, forse già si è visto, però se la squadra è con te o contro di te. Sai, la cosa curiosa su cui si rifletteva è anche questa. Allora, si dice si sta andando verso i playoff su 7 partite fin dai quarti di finale. La cosa curiosa è che questa modifica sul regolamento è stata votata dalle altre società, e quando dico altre dico che non hanno votato Siena, Milano e Cantù, che si sono astenute al voto, cioè le società che partecipavano da inizio stagione all'Eurolega, sostenendo che le partite erano veramente tante da giocare, sarebbero state troppe. Adesso c'è questa curiosa annotazione che ci fa dire che forse Varese e Sassari, le squadre più belle da vedere, magari avranno proprio un'incognita nei playoff su 7 partite, ma mi sembra che qui ingranaggi ben oliati a posto non li abbia nessuno, e questo forse potrebbe riguardare anche Milano. Che Milano abbia la bacchetta magica per rimettersi a posto dopo una stagione così sofferta, con queste continue sconfitte casalinghe, un forum che potrebbe diventare sempre più nemico se Scariolo resta sulla panchina di Milano, allora a questo punto c'è veramente da rimettere tutti i nomi nel bussolotto, perché quest'anno può uscire di tutto da questo campionato. Vabbè, quello lo diciamo dalla prima giornata, e in effetti ogni domenica ne abbiamo conferma. Di tutt'altro segno invece la crisi di Siena, no? Che non è crisi di conduzione tecnica o crisi tra virgolette ideologica, è crisi di fisica e risultati. Guarda, secondo me Siena è un caso molto interessante, è una stagione che è un po' esplosa in mano, nel senso che Siena non era data come la squadra favorita per vincere la Coppa Italia e invece l'ha vinta. Non era data come la squadra che poteva guidare un girone di seconda fase di Eurolega e lo ha fatto con grande personalità. Forse è in un momento come gruppo di difficoltà proprio di crescita, del dirsi realmente chi siamo e cosa possiamo valere in questa stagione. Su questo si sono innestati infortuni non da poco ed è indiscutibile che Thomas Ressi sia stato il giocatore chiave in alcuni bellissimi successi di Siena in Italia come in Europa. L'assenza di Ress ha tolto quell'equilibrio che si stava basando su uno dei pochi che c'era l'anno precedente, soprattutto negli anni delle vittorie, e questo ha creato un contraccolpo molto forte. Tutti però continuano a aggredire Siena perché vedono lo scudetto sulle maglie, quindi hanno il desiderio di battere quelli che comunque sono i campioni d'Italia, e oggi questo campionato è veramente spiegato. Nel turno scorso avevano vinto 5 delle ultime 8 ricordi. Oggi hanno vinto 4 delle ultime 6, quindi il campionato non è finito per nulla e Siena probabilmente dovrà cercare di rimettersi in carreggiata anche in campionato, con rischio di non avere il fattore campo nei playoff, ed è attesa da una sfida durissima contro Barcellona, col problema che è l'ultima spiaggia. Assolutamente, ora il Barcellona è già qualificato ai playoff ed è già primo, però secondo me è la faccia di Siena che ci dirà se Siena potrà essere ancora competitiva. E l'ultima domanda nel cassetto è: ma Siena ha senso andare avanti nei playoff di Eurolega o ha senso posizionarsi meglio nella griglia dei playoff? Punto di domanda. Questa rispondiamo le prossime domeniche. Intanto torniamo al forum, Stefano, perché Roberto Nardella ha un ospite. Proprio un minuto e mezzo, Roberto, per il sugo di tutta la storia. Allora, con l'ospite Sandro Pugliese, collega del quotidiano Il Giorno, uno dei principali, diciamo, conoscitori del pallacanestro qui per quello che riguarda Milano, a cui ovviamente chiediamo se secondo lui questa potrebbe essere o meno una partita da dimissioni per Ascariolo, che però le ha respinte in conferenza stampa. Beh, sicuramente poi è lui quello che deve decidere, non c'è dubbio che questo è sicuramente il suo punto più basso, il punto più basso della sua gestione milanese, una situazione difficile dalla quale venirne fuori, anche perché più di una volta l'Olimpia ha fatto prestazioni di questo tipo e ogni volta sono arrivate poi con formazioni di basso livello, e questa forse è la cosa che da un lato fa più preoccupare per la regular season. È vero anche che contro le squadre di un certo livello l'Olimpia invece ha fatto qualche cosina di più, potrebbe interessare questo per i playoff, però è evidente che se lo standard di Milano è quello di oggi c'è poco da fare in questa stagione. Roberto, intanto arrivano i messaggi al 349-238-6666. Scariolo pagherà per colpa di un branco di Lazzaroni, ci scrive Fabrizio, chissà se è riferito alla squadra, ma direi proprio di sì. Allora, intanto grazie a Roberto Nardella dal Forum di Milano, grazie a Stefano Valenti, giusto il tempo per i saluti, ringraziamenti a Giorgio De Luca in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Domenica prossima, il campionato gioca sabato e lunedì, ma noi domenica prossima ci saremo lo stesso con Palla Spicchi, numero speciale, puntata speciale tutta dedicata all'NBA, quindi siamo sempre qui a farvi compagnia. Intanto una buona serata da Dario Ricci.